Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Da oggi e per 3 giorni in diretta dal Salone del Risparmio in corso all'Università Bocconi di Milano, evento inaugurato questa mattina, il più importante evento italiano dedicato al tema del risparmio organizzato da Assogestioni, l'associazione che riunisce le società di gestione del risparmio nel nostro paese. Un evento che, vi dicevo, è arrivato alla sua 4ª edizione e che anche questa volta ha registrato un vero e proprio record di adesioni. Il primo tema, il tema che tocchiamo in questa puntata, è un tema che abbiamo scelto dopo averlo affrontato anche lo scorso anno. È un tema che vogliamo naturalmente affrontare perché è molto importante in questo momento seguire le famiglie che riescono ancora a fare delle scelte di investimento, perché, come sapete bene, negli ultimi anni molte famiglie hanno dovuto rinunciare anche ad accantonare parte di ciò che guadagnano, perché la crisi economica morde, continua a mordere ancora in maniera molto insistente, e invece il risparmio in Italia ancora c'è, custodito, va gestito bene, perché capita, appunto, come vi dicevo, anche di dovervi attingere in questi momenti di difficoltà. Allora, quali sono le figure di riferimento che ci aiutano in queste operazioni, appunto, di scelte di risparmio o di investimento? Possono essere delle figure che hanno ricevuto un mandato da una banca, in questo caso, appunto, sono i promotori finanziari, possono essere anche delle figure completamente sganciate dall'industria finanziaria, figure che offrono una consulenza sul portafoglio che un cliente ha già e quindi possono esprimere un parere, appunto, sulla composizione di questo. E questi sono i consulenti finanziari indipendenti. Qualcuna volta ha messo in netta contrapposizione questi due mondi negli ultimi anni, che invece, come dire, sono due mondi che si parlano molto apertamente. Noi questa mattina cercheremo di spiegarvi quali sono le differenze nella scelta di una professionalità piuttosto che in un'altra, naturalmente sempre a patto che un consulente si scelga, perché in realtà molte famiglie italiane hanno anche a volte, come dire, una tendenza diversa, quella di gestire da sola, appunto, da solo il proprio risparmio. Con noi questa mattina Maurizio Buffi, presidente dell'ANASF, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari. Bentornato, presidente, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. E con noi anche Luca Mainò, membro del direttivo di NAFOP, che è l'associazione dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente, oltre che direttore marketing della società di consulenza indipendente Consultic. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora, per tutti coloro che stamattina volessero intervenire nella nostra trasmissione, anche se siamo fuori sede, fuori radio, siamo appunto in diretta, come vi ripeto, dal Salone del Risparmio di Milano, potete come sempre interagire con noi chiamandoci all'800 24 00 24. Raccontateci come vi siete attrezzati per gestire il risparmio, appunto, da chi vi fate seguire, qual è il consulente, il vostro consulente di riferimento, se vedete vantaggi o svantaggi nel farvi assistere da una figura piuttosto che un'altra. Condividete con noi il vostro pensiero, lo potete fare anche scrivendoci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. siamo su Twitter, siamo su Facebook, per cui non vi possiamo sfuggire. Intanto, come sapete, come sentite, il salone è pienamente nel vivo, sentiamo ancora anche qualche trapano che lavora, probabilmente ancora non tutti gli stand sono pronti. Peraltro, presidente Buffi, lei ha appena terminato di seguire la conferenza inaugurale di questa mattina, dedicata un po' a un tema particolare, oltre al risparmio anche al settore agroalimentare. Quest'anno Assogestioni ha fatto una scelta inedita. Che cosa è stato detto, perché io non ho avuto il tempo di seguirla? Beh, intanto io credo che è stata una scelta intelligente e va riconosciuta da Assogestioni, perché l'ospite principale era Carlin Petrini, sì, il patron di Slow Food, che ha messo a disposizione, attraverso una serie di riflessioni, come in quel mondo, in quel settore apparentemente molto lontano dal nostro, è stata ricostruita dopo alcuni episodi drammatici, riferimento al vino all'etanolo che forse tutti ci ricorderemo, la fiducia, perché il tema vero è la fiducia. La fiducia non è soltanto un valore, come dire, evocato e solo teorico, è una serie di comportamenti, una serie di elementi che la costituiscono e che creano il substrato sostanzialmente dei rapporti anche d'affari, dei rapporti tra la domanda e l'offerta di risparmio come dell'investimento. Quindi è un tema molto intrigante, molto interessante. Certo. E quindi possiamo anche invitare i nostri ascoltatori eventualmente allora a condividere con noi il loro pensiero sul tema della fiducia con la persona che scelgono, appunto, per farsi assistere nelle scelte di risparmio e di investimento. Prima di tutto questo, però, la borsa. Allora, la borsa era partita bene stamattina, poi c'è stato un rapido giro al ribasso, adesso gli indici stanno perdendo l'1,28% Francoforte, Parigi meno 1,06%, Milano meno 0,7%. Cosa è successo stamattina che addirittura sul mercato si è messa a circolare la voce che potesse arrivare una bocciatura del rating sovrano tedesco, il che sarebbe veramente una notizia clamorosa, e di questa situazione peraltro ne ha risentito, ma non mi sembra particolarmente, il collocamento che il Tesoro tedesco ha effettuato appunto proprio quest'oggi. Il Tesoro tedesco ha collocato 3 miliardi e 350 milioni di euro di Bund a 10 anni, quel titolo con il quale compariamo sempre il nostro BTP decennale, al nuovo minimo storico all'1,28%, però ha collocato un importo inferiore a quanto previsto, il 4 miliardi, per cui evidentemente con questi tassi ha ritenuto il Tesoro tedesco appunto di bloccare forse anticipatamente l'operazione. Milano, vi dicevo, perde mezzo punto percentuale. Stanno andando benino i titoli del settore bancario, di nuovo cresce Monte dei Paschi, più 1,24, Intesa San Paolo più 1,29, i cali più forti sono su Prismian meno 4,54, su Buzzi Unicem meno 4, STM meno 2,54%. Ha ripreso invece a correre l'euro, sul dollaro vale in questo momento 1,21,54. Direi che la borsa la possiamo subito lasciare, andiamo al tema di oggi, italiani, risparmio e consulenza. C'era una volta l'Italia formica, un paese nel quale ogni anno i cittadini accantonavano circa il 20% di quanto guadagnavano. Un brutto giorno però arrivò la crisi e nel paese formica si cominciò a risparmiare sempre meno e talvolta anche ad intaccare il gruzzolo accumulato. La favola cattiva è la fotografia scattata dall'Istat al reddito e al risparmio delle famiglie italiane nel quarto trimestre 2012. Rispetto al 2011, il reddito disponibile delle famiglie è diminuito del 2,1% e con esso è diminuita anche la propensione al risparmio, scesa di quasi 0,5 punti percentuali. Anche gli investimenti fissi lordi nel bel paese sono calati del 4,6% e il relativo tasso di investimento si è attestato al 6,8%, meno 0,2% rispetto all'anno precedente. Un quadro difficile, che tuttavia non deve far dimenticare che la ricchezza finanziaria degli italiani, secondo il rapporto dell'Osservatorio sul risparmio delle famiglie di Prometeia presentato al Salone del Risparmio, ammonta, esclusi gli immobili, a circa 3.720 miliardi di euro. Sempre secondo Prometeia, gli italiani preferiscono gli investimenti in liquidità, che crescono del 27,6%, mentre diminuiscono gli impieghi nelle obbligazioni bancarie, meno 27%, e la fiducia nei titoli pubblici, meno 8,4%. Insomma, le famiglie puntano sui depositi tangibili e se scommettono sul futuro, preferiscono affidarsi ad uno specialista. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta se volete condividere con noi il vostro pensiero sul tema della consulenza finanziaria e la fiducia anche che avete riposto nel vostro consulente. Ci ha raggiunto intanto il presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco. Presidente, adesso ci sente, lo abbiamo cuffiato al volo. Perché insomma, questo sento questo, fuori cuffia io. Sente, adesso cerchiamo di capire appunto se possiamo ben... eccoci qua, perfetto. Come potete capire siamo in diretta. Presidente, allora già il presidente di ANASF, Maurizio Buffi, ci ha raccontato il tema che avete scelto per inaugurare questa nuova edizione del Salone del Risparmio. Intanto ci porta qualche numero, anche quest'anno mi pare di capire un boom di adesioni a questo evento. Sì. È ormai un bel successo e al di là dei numeri si respira un'aria abbastanza frizzante in questa prima mattinata. Ci sono 16.000 iscritti, eravamo partiti con meno di 8.000 tre anni fa quando eravamo partiti, ci sono 103 espositori, 150 marchi, ma al di là di questo, ripeto, al di là delle persone è proprio l'umore. In effetti l'industria del risparmio gestito dai fondi e dei mandati è in notevole ripresa, da sostanzialmente settembre dell'anno scorso ha avuto ritmi forzati anche positivamente dall'azione della Banca Centrale Europea e tutto il crollo che si era avuto in occasione della crisi del 2011, no, del cambio di governo e così via, è stato recuperato, e c'è motivo di pensare che almeno per marzo questi dati positivi vengano confermati. Dai dati eventualmente appunto sulla raccolta dei fondi. Presidente, lei ha toccato un tema centrale, ci sono state molte operazioni di missione di liquidità da parte delle banche centrali, questo è successo su scala mondiale ed effettivamente anche questa ripresa che si vede sul corso di molti listini internazionali, qualcuno la giudica anche un pochino drogata. Non è che stiamo assistendo, come dire, alla formazione di altre bolle che devono un po' spaventare le famiglie italiane? Guardi, la situazione dei mercati mondiali è stata tremenda, una dislocazione, una crisi che bisogna tornare agli anni 30 per averla vista. Quindi molti paesi, gli Stati Uniti e il Giappone, hanno deciso di affrontarla immettendo liquidità. In Europa si è deciso di affrontarla con l'austerità e le riforme, io ho più simpatia per la prima ricetta. Cioè mi pare che è una ricetta di austerità e di riforme abbia fatto morti e feriti e non vedo grandi segni di ripresa. Sembra il dibattito degli anni 30 quando c'era Keynes, no? Cioè non capisco perché un malato debilitato dovrebbe migliorare facendogli fare anche la dieta. Un problema grosso è però che tutta questa liquidità, a quanto pare, fino a questo momento si sta trasferendo solamente nel mondo finanziario, non nell'economia reale. Le faccio questa domanda perché molti ascoltatori stanno già osservando, non so di che cosa stiate parlando perché il risparmio è finito da un pezzo. Ci sono due temi separati. Il primo è che dove è finita la liquidità. Sicuramente la grande sfida degli anni a venire è portare il risparmio verso l'investimento e verso l'investimento produttivo. Per esempio i fondi dedicheranno una parte dei propri impieghi a bond, mini bond, credito alle piccole e medie imprese proprio per aiutarle. Poi c'è il problema del tasso di risparmio che scende, qua stiamo onesti, se non c'è reddito non c'è risparmio, con la disoccupazione crescente, la crisi eccetera, molte famiglie italiane, più del 20%, stanno decumulando i propri risparmi, ma lo stock di risparmio, la consistenza della ricchezza finanziaria degli italiani è ancora 8 volte il reddito disponibile. Nel caso del gestito supera 1.200 miliardi, 1.2 trilioni, deve essere ben gestita, bisogna aiutare gli italiani a risparmiare meglio. Risparmiare meglio cosa vuol dire? Risparmiare nel lungo periodo, perché risparmiare è appunto una scelta di lungo periodo, e portare questi benedetti risparmi verso gli investimenti. Il paradosso che lei sottolineava, ma che tutti conosciamo, gli ascoltatori per primi, è tantissima liquidità, tassi di interesse alti e non arriva a chi la domanda. Questo lo diceva anche Draghi ed è il tema dei temi. Cosa le viene in mente quando legge sui giornali, ma avrà seguito in diretta anche l'operazione di questi giorni, che 16 miliardi di euro finiscono nel BTP Italia, di risparmio delle famiglie italiane? Non solo naturalmente, ma quello è stato proprio un titolo appositamente creato per l'investitore domestico. E al dettaglio, no? Retail, come si dice. Mi viene in mente che c'è un grande bisogno di ritorni, questo è un titolo che rende, rende il 2, più l'inflazione, c'è il premio fedeltà, eccetera. Zero commissione di sottoscrizione. Quindi, è anche una bellissima operazione di marketing, perché questo va detto da parte del Tesoro. Cioè, è marketing, ma è sostanza, cioè un titolo che rende, giustissimo che gli italiani, in più segnala fiducia verso il nostro sistema. Verso l'emittente italiano. No, lo Stato. Presidente, un'ultima domanda, poi la lascio. Siamo in pieno stallo politico ancora. Un legislatore che non può operare il risparmio, di che tipo di interventi ha bisogno da parte della politica italiana? Il risparmio italiano. L'Italia è un paese di grandi capitali, capitale naturale, capitale artistico, e capitale finanziario naturalmente, capitale umano. Io ritengo che l'Italia debba mettere questi capitali, non solo quello finanziario, al centro della propria politica economica. Ci sono finiti gli esperimenti stravaganti, si tratta di valorizzare quello che abbiamo e quello che sappiamo fare meglio, e quindi mettere il risparmio al centro, e le altre forme di capitale al centro della politica economica. Presidente, so che ha molti impegni oggi, noi lo lasciamo, la ringrazio per questo blitz, buona giornata, grazie molte. Ed eccoci ritrovati in diretta, ancora buona giornata, era Deborah Rosciani, siamo in diretta, ve lo ribadisco, per chi si fosse perso la prima parte del programma, dal Salone del Risparmio di Milano, un evento, il più grande evento dedicato al mondo del risparmio nel nostro paese, una iniziativa che si svolge all'Università Bocconi, organizzata da Assogestione. Abbiamo sentito poco fa l'intervista che abbiamo realizzato appunto in diretta con il presidente, il padrone di casa, il presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco. Adesso ritorniamo sul tema che ci eravamo dati, anche se qualche indicazione interessante il presidente appunto ce l'ha data. Ci vogliamo focalizzare sul tema della fiducia questa mattina tra mondo del risparmio e consulenza, tra le famiglie italiane e i consulenti che scelgono e a cui si affidano per gestire al meglio il proprio risparmio, che è sempre più ridotto, è diventato sempre più ridotto nel nostro paese, ma in realtà lo stock del risparmio italiano è elevatissimo se giudichiamo quello che accade invece in altri paesi europei, ma anche in altre appunto economie del mondo. Chi sono i consulenti che ci seguono? Questa mattina abbiamo con noi il presidente dell'ANASF, l'Associazione dei Promotori Finanziari, Maurizio Bufi, e Luca Mainò di NAFOP, l'Associazione dei Professionisti della Consulenza Finanziaria Indipendente, oltre che direttore marketing della Società di Consulenza Indipendente, Consultic. Mainò, riprendo da lei, se vuole commentare anche l'osservazione che abbiamo fatto nella prima parte del programma, il tema della fiducia, appunto il mondo della consulenza finanziaria indipendente, anche si è fatto un po' più forte negli ultimi anni, anche perché in certe fasi abbiamo avuto una crisi del rapporto di fiducia tra risparmiatori e banche, perché era quello stato tradizionalmente il canale più importante appunto per a cui affidare il proprio risparmio. E oggi qual è lo stato di salute che questo vostro settore ha? Allora, devo dire che da un anno a questa parte, quando l'ultima volta ci siamo visti proprio qui al Salone del Risparmio, sono cambiate molte cose, nel senso che è aumentata notevolmente la domanda da parte dei risparmiatori, devo dire, più informati, e la domanda di consulenza finanziaria indipendente. Ma cosa ci chiedono gli investitori? Cosa chiedono a un consulente indipendente, a un soggetto che in maniera indipendente, senza conflitti di interesse, approccia il cliente sul proprio risparmio? Chiedono, la prima domanda è: ma la banca in cui io ho investito i miei soldi è sicura, sì o no? Sono al sicuro i miei pochi o tanti soldini che sono allocati presso questo o quell'altro intermediario? Quindi non perché magari non rende più di tanto. Oggi è proprio centrale il tema della fiducia, che abbiamo detto all'inizio, addirittura nei confronti dell'intermediario. Esatto, e ovviamente il timore è quello di avere un intermediario che per mille motivi possa non avere quella solidità tale per cui il mio patrimonio è protetto. E quindi la prima cosa che noi andiamo a fare è proprio andare a fare una verifica dell'efficienza, della qualità e della solidità delle depositarie, ovvero delle banche presso cui gli investitori hanno depositato il proprio dossier titoli, i propri fondi, certo, i propri investimenti. E questo è un tema molto interessante, perché per la verità, lo abbiamo ribadito fino allo sfinimento, abbiamo avuto una situazione in cui, nonostante la crisi pesantissima, il nostro paese non ha dovuto fare, con l'unica eccezione, a parte l'unica eccezione recente, salvataggi appunto nei confronti del sistema bancario, e tutto sommato poi anche l'ultimo molto importante che è avvenuto è per un importo, se consideriamo gli altri, ridotto, i Monti Bond appunto per Monte dei Paschi, e per la verità poi quel sostegno finanziario è stato reso necessario per altre vicende della banca, non per la crisi finanziaria. Eppure questo tema, presidente Bufi, della sfiducia nei confronti dell'intermediario che sollevava Mainò, è riportato anche da parte dei vostri promotori finanziari, lo avvertono anche loro? Ma dicevamo prima, a proposito della fiducia, come questo è un tema centrale, non lo è da oggi a dire il vero. È chiaro che dopo 5-6 anni di crisi finanziaria, che sostanzialmente poi si è trasferita all'economia reale, il problema della fiducia rimane e campeggia tra le cose più importanti. Allora, la fiducia non è un atto fideistico nei confronti di qualcuno, è sostanzialmente, dovrebbe essere un atto consapevole, e la consapevolezza cresce sulla base delle capacità intanto di ciascun risparmiatore di saper riconoscere i propri bisogni, e dall'altro di un soggetto qualificato che è in grado di interpretarli e di assecondarli, pur essendo un operatore economico egli stesso, evidentemente. Certo. Poi qui possiamo aprire il tema dell'indipendenza piuttosto che del conflitto di interessi, e quindi questo è un tema a cui tutta l'industria dovrebbe dedicare grande attenzione, anche per un altro aspetto molto particolare, che la fiducia non si riconquista nel giro di poche settimane, richiede tempo, e il tempo è una variabile importante. Ci metto fiducia / anche reputazione per un'operazione, certo, per un professionista appunto del vostro campo, che credo che quella sia anche la cosa più importante. Siete, presidente, in questo momento oltre 52.000 promotori finanziari appunto che operano nel nostro paese, di cui 12.000 iscritti all'ANASF. Esattamente. Perché non si iscrivono tutti? Beh, intanto perché 52.000, beh, questo sarebbe bene augurante, e mi auguro che accada nel tempo. In realtà i 52.000 a cui lei fa riferimento sono gli iscritti all'albo, ad APF. Molti di questi, una buona metà, non sono operativi, quindi sono solo dei soggetti teoricamente iscritti ad un albo ma non operativi. I veri operativi sono molto meno, possono essere misurati in funzione dei dati che ci fornisce anche Assoreti, tra i 21.000 e i 22.000 sostanzialmente. Quindi la rappresentanza di ANASF, che conta 12.000 associati, è una rappresentanza molto elevata, perché è quasi la metà, anzi oltre la metà degli operatori attivi. Ciò non di meno è ovvio che ci sono spazi per fare nuovo associazionismo, però è un numero importante e ho l'onore di rappresentare una, non solo gli associati, ma sostanzialmente in una serie di battaglie, in una serie di fronti, in una serie di temi che ci vedono impegnati tutta la categoria, certo, indipendentemente dall'essere associati o meno. E anche voi, un po' come consulenti indipendenti, in questo momento dovete affrontare anche la questione, come dire, della incertezza politica, della mancanza di un organo legislativo di riferimento che forse sarebbe più utile in questa fase ai consulenti indipendenti. Invece voi, Mainò, quanti siete oggi in Italia? Allora, noi siamo poco meno di 300, noi come associazione, come NAFOP, che racchiude e raccoglie i professionisti, quindi studi professionali e società di consulenza, siamo poco meno di 300 realtà sparse un po' su tutto il territorio nazionale, in particolare nel nord Italia, nel centro nord, sebbene anche nelle grosse città del sud abbiamo delle pattuglie abbastanza, come dire, interessanti e, come dire, numerose di studi professionali. E ritengo che per la consulenza indipendente sia necessario ancora oggi il discorso della prossimità, cioè quindi di essere operativi sul territorio, di avere degli studi professionali vicini direttamente agli investitori, tale per cui questo tipo di servizio possa essere prestato in maniera, come dire, molto vicina al cliente. Anche perché la seconda cosa che ci chiedono gli investitori dopo è sicuro il mio intermediario? Ok, bene, la mia depositaria è sicura, sì o no? Ma la seconda cosa che ci chiedono è: ma ho messo il mio patrimonio in strumenti finanziari, in prodotti, ma qual è la valutazione di questi strumenti? Qual è la loro qualità? Sono efficienti, non sono efficienti? Che rischi ho in corpo? Che tipo di costi vado, a che tipo di costi vado incontro? E quindi per questo è necessario proprio un contatto diretto con il consulente nel suo studio, che può approfondire, certo, con analisi e perizie estremamente dettagliate, pignole, ma anche, esatto, un po' costose, ma no, perché come lei sa, appunto, la contestazione che io le muovo sempre tutte le volte che la vedo, come la muovo un po' al mondo della consulenza finanziaria indipendente, quella appunto che avete delle soglie, come dire, un po' di ingresso particolarmente alti. Per chi ha magari un risparmio familiare contenuto, sembra che non abbia la dignità di potersi avvalere appunto di una consulenza di questo tipo. C'è anche da dire che spesso appunto gli studi di consulenza indipendente sono studi che offrono la professionalità di commercialisti legali, quindi sono delle strutture un po' più complesse, non esiste solamente il consulente finanziario che dice alla persona: va bene che tu abbia scelto questo bot piuttosto che questo fondo di investimento. Quindi forse anche questo equivoco un po' va, ecco, spiegato. Posso dire che giustamente questa è, come dire, più volte viene sollevato questo ragionamento. Posso dire che sta aumentando la consulenza pagata a tariffa oraria. Quindi tariffa oraria che cosa vuol dire? Vuol dire che io, investitore che ho anche un patrimonio piccolo, posso avvicinarmi a un consulente indipendente e magari in un paio d'ore riuscire ad avere una disamina del mio portafoglio e a quel punto capire se vale la pena o meno poi sottoscrivere un contratto di fee annuale, in modo tale che così la cosa possa procedere. La tariffa oraria può variare dalle 70-80 euro fino alle 200-250 euro. Grazie, insomma, per averci dato anche delle informazioni così precise. Presidente Bufi, ma voi in questi anni, noi chiaramente abbiamo parlato all'inizio perché è questa anche la realtà di due mondi che non sono in contrapposizione, ma è davvero così idilliaco questo rapporto con il mondo della consulenza indipendente? Perché insomma loro dicono: noi siamo assolutamente privi di conflitto di interesse, invece voi naturalmente avete dei promotori che lavorano su mandato di società, di banche, appunto. È davvero così oppure ci sono stati dei momenti in cui vi siete un po' accapigliati? Ma intanto lasciatemi dire che i numeri parlano già da soli, quelli che abbiamo prima richiamato. Detto questo, ho sempre detto e ribadisco anche in questa sede, mi fa piacere farlo alla presenza dell'amico Mainò, che c'è spazio per tutti. Sono diversi modelli distributivi che hanno e richiedono tempo, a proposito della necessità di utilizzare questo tempo nel modo più profittevole possibile, per affermarsi. Perché? Perché veniamo da un sistema che è notoriamente bancocentrico, e il sistema che tra l'altro ha le sue origini, la sua storia, adesso non vogliamo scomodare dei concetti troppo impegnativi, ma sappiamo come si è evoluta in Italia, in modo particolare la presenza delle banche sul territorio. E però, guardate un po', oggi la richiesta di operatori qualificati è vie più crescente. Ci ci sarà un motivo. Il motivo è proprio dato dal fatto che alcune categorie di operatori, certo, in modo assolutamente dinamico, sono stati in grado di rappresentare forse al meglio quelle esigenze della clientela che altri soggetti, per quanto predominanti, oggi, forse già ieri, non erano in grado di rappresentare. Fuor di metafora significa che c'è una grande necessità, un grande bisogno di consulenza. La consulenza può essere erogata, può essere prestata attraverso modelli diversi. Ma ben venga, quindi da questo punto di vista l'importante sono due cose, assolutamente, voi, assolutamente. Le cose importanti, se posso dire, sono un terreno di regole uguale per tutti gli operatori, quindi una realtà concorrenziale, la capacità di sostenere e sviluppare attraverso adeguate politiche di formazione, di sostegno, anche di remunerazione, figure professionali, e poi evidentemente ce la giochiamo. Tradotto significa che l'ambito del risparmio che prima veniva richiamato dimensionalmente è un ambito molto grande. Il presidente Siniscalco ci ricordava che il risparmio delle famiglie è 8 volte il reddito disponibile, ma se anche lo dovessimo confrontare con il PIL, siamo sempre, notoriamente gli italiani sono un popolo di risparmiatori, oggi un po' meno. Ci piace di più per consolarci in genere confrontarlo con il debito pubblico, perché esatto, quello privato è un po' più grande. Insomma, uno dei temi per cui si ritiene anche a livello internazionale che il debito pubblico italiano sia così, tenga così bene, è perché il risparmio delle famiglie è così importante e così diffuso. Quindi è evidente che l'importante è poterci presentare al mercato con le skills adeguate, e noi riteniamo di averne, non siamo i soli certamente, ma riteniamo di averle. È chiaro che il mercato è per tutti sfidante, e cioè anche noi dobbiamo metterci in discussione dal punto di vista della reputazione, dal punto di vista della formazione, dal punto di vista delle capacità di fare sempre meglio quella consulenza che ci viene richiesta. Tra l'altro io ci metto anche la consulenza psicologica che molti di voi avete dovuto fare in questi anni per naturalmente rassicurare le famiglie italiane su quello che ci stava accadendo attorno. Eccoci ritrovati in diretta per l'ultima parte di Salvadanaio, in diretta dal Salone del Risparmio di Milano. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre osservazioni. Li sentiamo tutti insieme, Pietro, Ferdinando e Raffaele. Cominciamo con Pietro da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Vorrei chiedere questo: il piccolo risparmiatore con, facciamo, 150.000 euro, che poi guardi, non è mica tanto piccolo questo risparmio, sa? Un risparmio da ridere, secondo me, secondo la mia vita. Io direi che, in vista del tracollo dell'euro che dovrebbe essere imminente entro qualche mese, speriamo di no, Pietro, adesso per no, quale certo, motivo speriamo sì. di no, perché io sono contro l'euro. L'euro deve purtroppo rimanere. Dovevamo fare come gli inglesi, aspettare. Ecco, volevo dire questo. Secondo me, un suggerimento che mi faccio, che faccio me stesso, sarebbe quello di cambiare i franchi svizzeri. Pietro, aveva qualche domanda sul tema della consulenza che affrontiamo stamattina? Sì, come investe uno 150.000 euro? Dovrebbe, diciamo, non è che si può dare una ricetta così, dovrebbe avere delle idee chiare su che tipo di obiettivo deve avere questo denaro, se garantirle una vecchiaia serena piuttosto che, non lo so, darli anche in eredità a 2, 3, 4 figli. Quindi bisogna anche avere degli obiettivi magari condivisi con un consulente, che non è detto che debba essere un promotore o un consulente indipendente, può essere anche una scelta di altro tipo. Però vediamo, insomma, magari un ABC da parte dei nostri ospiti quale può essere. Ferdinando da Brescia. Sì, buongiorno. Sì. Senta, io volevo fare un'osservazione e nello stesso tempo essere anche una domanda, perché sia sul discorso del promotore finanziario piuttosto che del consulente indipendente, ovviamente il professionista capace credo che riesca a dare risposte idonee sia nell'uno che nell'altro caso. Ovviamente il consulente indipendente avrà magari più strumenti o nel caso di fonti, casi di fondi, case di investimento da proporre, però quello che secondo me sta diventando importante, fondamentale, è la capacità che un promotore deve avere di gestire il tempo dell'investimento. Voglio dire, è paradossale come ci si debba trovare oggi a pensare che un investimento debba essere dedicato a lungo periodo, mentre invece la differenza sostanziale la fa la capacità di gestire quello stesso investimento, di cambiare magari nel tempo velocemente indirizzo, perché la globalizzazione, gli scenari di crisi degli ultimi anni, cade una foglia, succede un terremoto e diventa veramente quello lo skill poi fondamentale che probabilmente un risparmiatore chiede al suo promotore o al consulente indipendente. Volevo sapere dai suoi ospiti questo aspetto del tempo, che cosa della ne capacità. Pensa, certo. Esatto, grazie. Grazie, guardi, le metto insieme anche l'osservazione di Raffaele perché, come dire, voleva esprimere una considerazione che fa del tempo appunto il suo perno centrale. Raffaele, buongiorno da Olbia, rapidissimo, buongiorno, grazie. Velocissimamente volevo solo chiedere questo. Innanzitutto la fiducia nei promotori questi anni secondo me è scemata per il fatto che abbiamo visto dipendenti di banca che proponevano assicurazioni, assicuratori che proponevano investimenti. E anche impiegati della posta, ci metterei anche Raffaele, sì, che propone prodotti finanziari in luoghi dove qualche... No, certo, ma non era una contestazione, no? Nel senso che volevo ribadire il fatto che abbiamo un mondo che è cambiato radicalmente, ecco. Certo. Ecco, la domanda che volevo porre è, io che sono un lavoratore autonomo, ho sottoscritto sia per me che per mia moglie dei fondi pensione, in modo che al raggiungimento della pensione, che Dio sa quando arriverà, si possa avere un'integrazione al reddito. Però trovo sempre, non delle difficoltà, ma della gente non preparatissima, perché quando io chiedo il caricamento, quello iniziale, quello anno, i rendimenti, dice ma queste domande non ce le fa nessuno. Allora questo significa che non devono rispondere neanche a lei, Raffaele, no? E non ci stiamo neanche noi, fa bene a denunciare questa situazione. Raffaele, grazie, io purtroppo ho 5 minuti e devo essere molto sintetica anche nel sentire le domande degli ascoltatori. Cioè, allora, da che cosa partiamo? Presidente Bufi, promotori finanziari, arriva un ascoltatore, un cliente di un promotore che dice io ho 150.000 euro da investire, però tanto sono convinto che l'euro domattina si sfalda. Certo che il promotore finanziario qua non sa dove mettere le mani anche per fare una consulenza. Come dire, adesso non so che tipo di osservazioni fare sulla prima abbastanza pittoresca telefonata, sì, del nostro ascoltatore. Sì, ma lei ha già risposto, nel senso che diceva bisogna vedere quali sono gli obiettivi di investimento di questo signore, evidentemente, ma senza andare oltre, è chiaro che io sono convinto che ci sia o sia prossimo un break up dell'euro, la cosa più ragionevole che mi sembra di fare è investire in un'altra valuta, punto. Ma voglio dire, non è questo secondo me lo scenario che dobbiamo tenere presente. Mi sembrava particolarmente interessante la seconda domanda. Se posso dire, certo. Forse anche la terza, e cioè l'ascoltatore diceva il professionista come tale è colui che riesce a dare delle risposte adeguate al proprio interlocutore, è esattamente quello che dicevo io prima, cioè il mercato ha bisogno di soggetti qualificati, che poi questi siano gli uni piuttosto che gli altri. È chiaro che io rappresento i promotori finanziari e sono assolutamente convinto e consapevole di ritenere che tra essi vi sono e tra tanti di essi vi sono le figure più adatte per dare queste risposte, ma ho appena detto che non siamo gli unici perché non siamo il centro del mondo. Ma certo l'elemento del tempo è fondamentale, l'elemento del tempo lo inquadrerei anche qui in funzione di quelli che sono gli obiettivi di investimento di quell'interlocutore, di quel cliente, e perché no, in una logica, in un orizzonte temporale dato, che può essere più o meno lungo, la capacità di una gestione attiva è importante, questo è fuori di dubbio. Sui fondi pensioni è certo che la trasparenza è importante, veniva evocata anche stamattina a proposito sul convegno relativo alla fiducia. La trasparenza significa dare le informazioni corrette quando richieste, aggiungo anche quando non richieste. Perché non vorrei anche che i consulenti si stessero perdendo una sfida importante tutti quanti, dico, che è quella della previdenza complementare, che invece è il terreno più importante sul quale dovrebbero fare attività di consulenza. 30 secondi, Luca Menosso. Sulla previdenza, qui entra in gioco, come dire, una delle attività del consulente indipendente. Sulla previdenza il signore ha detto ho sottoscritto un fondo pensione, ma ha veramente sottoscritto un fondo pensione, sì o no? Perché la parola mercato, caricamento non, esatto, non si associa tanto. Cioè sul mercato vengono spacciati per fondi pensione N prodotti dai FIP, dalle, certo, polizze particolari, quindi qui è necessaria una perizia tecnica approfondita, dettagliata, in, certo, maniera completamente indipendente. Allora, per chi volesse fare il consulente dipendente può trovare qualche informazione mai no da qualche parte? Ma allora, due cose. Che domanda casuale che le faccio. Allora, chiudere, 10 secondi. NAFO.org, consulti.com, e poi abbiamo creato invece invece per gli investitori, per autoformarsi, un sito di formazione indipendente, investoinme.it, e potete andare a trovare. Esatto. Invece, presidente Buffi, venerdì al Salone del Risparmio, l'educazione finanziaria, ci sarete anche voi. Sì, ricordo a questo proposito che EFPA, che è la fondazione di ANASF della formazione qualificata, svolgerà il suo meeting a giugno il 6 e 7 del prossimo mese a Riva del Garda. Se ce la facciamo noi, tra l'altro, il venerdì portiamo anche le scuole a Salvadanaio. Grazie a tutti, buon lavoro, a domani. Salvadanaio.